Holy crap. Yeah. Hello. Hello. Ciucucciù. Ciucucciù. Antonello. Dimmi. Ciao, dammi il controllino di radio. Com'è questa radio? Microfono normale? Ho capito dietro. Dimmi. Paoletta, dammi un controllo di radio. Com'è questa radio? Scusa. Vabbè, comunque sia, sono 5, 105 Rai, un attimino, è un casino qua, cioè sono andato per una cosa basta. Vai, 105. E yeah, 105. Secondo te, i conti, 150 watt, 1000 valvola, sono 5, quindi quanto ti va? Esatto. 750, Antonè, se sono 5 watt, 150, se la matematica non è pignone sono 750 watt. 850, vabbè, comunque 850, sono 5 watt, la retta. E il Galaxy Bill, già l'ho avuto anche tu, quindi non è che ti sto dicendo cazzate. No, è la giù per il su. Da 700 a 850, cioè praticamente il tesoro grandezzetto è passavanti, no dai. Io avevo il Galaxy 1000 da zia, 950 watt, ma era un Galaxy 1000. E questo secondo te cosa cazzo è? Ti faccio una fotografia. Il Galaxy 1000 è questo, Emi. Hai capito? Non ti sto dicendo cazzate. Galaxy 1000 non è altro. Quindi sono te. E allora vale valvole avariate, come ti faccio ad andare a 850? Vabbè, a me mi stavo mettendo a 850, poi dice ti dà 850, vabbè, vabbè, detto, se ha 850 cosa ne so, detto. La verità si dica, comunque secondo me non comprende, anche perché è una cosa assurda, parecchio, ma veramente parecchio questo aggeggio. Comunque 850 sono pochi. Se fai il calcolo a 150 ti dà 750, Antonè. Ascolta, sono 5 watt, quindi 150 watt ognuna, fate il calcolo di quanto ti va fuori questo diale, quindi siamo a posto, non è che c'è poco da sbagliare. Antonè, io faccio il calcolo con la mente, io ce l'ho con la calcolatrice in mente, nel cervello, io sono un bravo matematico, ma vai, che cosa me le vuoi dire? 5 watt al 150, ti dà 750, scommetti quello che vuoi. Ma non mica sto usando 5 watt io, sto usando di più. 10 watt in ingresso sto usando a me. Cazzo. Il mio amperometro, già l'hai visto anche tu, sale a 1, sale, non è che sale a 3, no? Già, io sto dicendo in base a quello che stai dicendo lui. Sì, ma magari lui si sbaglia, magari sono a 200 le valvole. Se tu fai il conto, da 200 ti dà 1000 watt, poi 1000 watt non li dà mai. Infatti, allora sì, ma no, da 150, a torre c'è mai niente. Beh, sono qua, non lo so, io ho solo una vita, la verità. Comunque sia, mica è mio, quindi a un certo punto 850 o 1000 non mi cambia la vita a me, il discorso è quello. Infatti funziona. No, perché comunque sia, quanto tempo vuoi il segnale? 9.30 sei qua. 9.30, ok, siccome non posso usare lo stand-by, e quindi adesso sai cosa faccio? Guarda un po', staccato, guarda un po' com'è, quanto scendo? Adesso sei 9.05, preso un po', alla zona mia. Hai visto che cambia la roba, cazzo, adesso cambia, cazzo, il guadagno c'è. Certo che c'è, non è più preso, si vede lo stacco. Ok, volevo sapere quello, tutto di niente da pesticciare, non lo sto pesticciando con nessuno, la verità, comunque sia. Antonella, stiamo pesticciando, in base a quello che tu mi hai detto, io ti ho fatto il calcolo con il mio cervellino, perché io in matematica ero numero uno quando ero a scuola. Oh, 150 per 5 fa 750, caro Antonello, per bacco, se tu mi dici 200 watt ogni valvola, che mi dà, ma non te le dà giustamente, ti dà 850, allora che... Esatto, sì, bravo, ok, comunque le valvole sono a 100... sono 510, quindi sono andate per 120 e qualcosa, quindi a un certo punto sono 5, a un certo punto, e così va, già va bene. E beh, è di careggio lineare. Ah? Che è questo lineare? Se parli prima di me, io non ti capisco, perché c'ho il bibi, già lo sai. Di chi è questo lineare? Io già lo sai, di chi è. No, io non lo so, questo come indovino, ma ancora non ce l'abbiamo fatto. Vabbè, già te lo dico di persona, di che lineare, non ti preoccupare, così abbiamo... Vabbè, penso che... Cazzo, arriva uno, vabbè, comunque sia il... Fuori testa, cazzo, aspetta, aspetta un secondo. Thank you. cosa? Io un greco parlo, lineare, riparando, lo sai, ce l'avevo in riparazione. Sì, quello sì, la verità, lo sto riparando. Ho visto, sta funzionando come una volta bene, è una cosa allucinante. Solo che in pratica c'è una vibrazione, non metti un coso, la vibrazione non c'è più. Ma oggi un bel di birra è bevuta, non ho capito. Si è bevuta molta birra, ho letto, che c'è di chi è? Ma assolutamente, ma non ho bevuto niente di quello che pensi tu, per dire no. Non ha mito manco un goccio di birra, Tonello. Sì. Guarda che sto dicendo sul serio, meno, guarda che sto dicendo palle. Siamo lì che è dentro. Papà, sì, è strano, non lo so, comunque sia, è così. Voce lineare che ti fa la voce strana. Vuoi dello stacco? No, io non faccio che vuole, non c'è problema. Non c'è problema, insomma. Ma poi, c'è bisogno di attaccare lineare, siamo due passi, uno all'altro, un po'. Me lo sto provando, aspetta, va. Se la potessi portato a snodo e pensavi a te, allo senso. Oh, ma si sente il radio. Ma poi si senti lì. Guarda, si sente il radio. Vabbè, aspetta che stacco un attimo. Ecco qua, staccato. Adesso attacco il cavo, 2 minuti, no? Così mi senti meglio e non mi senti svuoto, vabbè? Antonio, con linea attaccato ti fa la voce imbriaca. Ho capito, infatti adesso sto staccando questo e attacco il coso, 140, 2 minuti. Anche così va bene, mia. Anche così va bene, infatti. Oh, ci può attaccare a Spiro Gonzale, attacca Griscio e fare piatti. Così va bene, sono pronto? Va bene. No, così no, Antonè. Quando attacchi lineare c'è bricco. Che cazzo, ma... Aiuta, non è possibile, no. Non puoi vedere una cosa del genere. Mi posso svolto con un fumo. Aspetta una seconda. Adesso mi passo il tuo fumo, va. Ecco fatto. Mi sono tutto profumato adesso. Così impari, va, quello bene, hai capito? Antonello è cotto, perché è ubriacone fragico. Dalla salì. Sabia che stava dentro, lo sapevo. Ciao Tartarino, ti ho chiamato stasera ma non rispondi. E dove mi ha chiamato? Al telefono? No, qua, che va? C'ero tutta la sera, poi mi sono rotto le scatole e sono dovuto andare a fare una commissione ed è per quello che magari mi ha trovato quando non c'ero. Ho capito. Vabbè, comunque ti faccio andare avanti a Torino, Scappa. Ciao Natalia, già sono troppo compagno. Anda bene, avanti Natalia. Saluti a tutta la ruota, così non sbaglio. Perché non so chi, siccome sto rientrando, non so chi ci sia, capito? C'è Gianni, quell'imbriacone di Antonello che quando attacca il lineare sembra che beve birra. Avanti Antonello, vedi, già è sceso, c'è. Li mangi lì dentro, mangi finta. Che cosa, un lineare o la birra? Il lineare e la birra, tutto messo insieme, un minestrone uscito. Infatti ci ho sentito. Stiamo per saltare tutto. Ma come sto uscendo adesso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Ma se parlate due, quanto si parte due svolti, la verità. Uno per volta. Cavolo, scusa, stavo per due, mi è sembrato due svolti, quindi uno per volta come sto uscendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po', come va? Ok, naturalmente, sto uscendo con 140. calda. Sempre dentro un vaso. Vabbè, vaso non vado, non fate proprio niente, la verità. C'è un po' pieno il culo. Vaso è quello che è. Comunque sia, arrivate solo 10. Antonio, passa appena appena la radio. Non capito, solleva la radio o abbassa la radio? No, abbassa la per appena. Aspetta un secondo. Allora, va un po'? Adesso va meglio. Va meglio adesso, sì. Sì, vabbè, un po' cupo, ma è il coso del 140, lo fa tu. Aspetta, adesso guarda un pochettino, 1, 2, 3, 4, 5, 6 prova. Ok, no, le mie 5 sono usate adesso, quindi già va bene, no? Fischio. Sta fischiando. Ma sapete, dove ci sono? Non è possibile. Magari c'è troppo vicino all'apparato, prova a mettertelo sulla gamba per se fischia. Mettilo vicino a QSO. Sicuro. Nazati. Vai. Poi io sto aspettando che stanno per arrivare le pizze, dai. Ci sentiamo alle prossime. Entrate troppo tardi. Cioè adesso sono rientrato io tardi. Buona pizzaiola allora. Ciao. Faccio a vedere a... Grazie, salutoni a tutti, dai. C'ho anche gente qui, quindi no, non è che posso riprendere. Ci sentiamo alle prossime, dai. Vabbè, ciao. Buona pizzata, ciao Natali, saluta Coccetta. Ciao Natali, alle prossime, ci sentiamo. Io me l'ho preso lì, le pizzette. Oh Dio. Ne ho mangiato 4. Come al solito. Io 4, no, di solito sì, ne ho mangiato. Adesso ne ho mangiato 4. Ma sono pure un bel 4, per cavare 2. No, 2 non mi fanno una questione di calugo. Questi pizzotti che 4 pizzette sono 4, una pizza grande, non è che siano chissà qua, sono 4 una pizza grande, più o meno la stessa cosa. Oggi è giovedì, cavolo, tra un po' io devo chiudere, perché oggi è San S. Infatti ho detto, boh, strano che sta entrando. Di solito si è occupato più per dire. Ho santi e lo stesso, dai, siamo lì. Sta pagata. Vabbè. E quindi, adesso ti devi fare la cena, tutto qua. No, mi sa che ci ordiniamo o la pizza da pizzicotto oppure verdure grigliate, boh, vediamo. Ah, pizzicotto. Ah, verdura, la fritellina. Antonè, ma non pizzicotto di ripulti. Io mi servo quello di Sant'Orsola, che è buono. Ah, quello sì. Di figlio. Il secondo 2. Scusa, so se figlio o nipote, insomma, io sempre la vado, è più vicino a casa e tutto. Che figlio è il figlio, non ti preoccupare. E poi c'è anche una bella patata lì alla cassa, o chi prepara le pizze nelle scatole. Non so chi è quella, non ti preoccupare, la figlia è quella. Che buona, già lo sai anche tu. Ma certo che lo so, perché vado a nascondere. Ma, va bene. Gli occhi guardano e basta. Dai, comunque fate schifo, siete in mezzo. Signori, vi saluto, dai, ci sentiamo domani, se ci siete mi trattengo un po' in più. Ok, ciao Gianni, ciao Antonello, ciao Antonino, ciao chi c'è nascosto, ciao. Ciao, pure tu ti sei salutato. Va bene, ciao a tutti, ciao Natalino, ciao anche Antonello, adesso chiudendo anche io che vado a portare giù il cane. Comunque Antonello è così, va bene, la radio è buona. Ok, va bene, ti ringrazio, ok. Ci vediamo domani, no? Fatemi bene, buonanotte, buon tutto, eccetera, eccetera. A parte l'innesco, la radio è buona, ma c'è un innesco sottofondo. Controlla che cosa sia, magari roba di massa. Vabbè, adesso non c'ho l'apparecchio di ricezione aperta, me l'ascolto, quindi a un certo punto non me l'accorgo. Comunque sia, vabbè, l'innesco già lo togliamo subito. Va bene Antonè, ci sentiamo, ciao. Ciao, alle prossime, state bene, ciao. qua. Prova 3, 4, 5, 6, prova, ora,